Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Buon 2018 a tutti, siamo nel pieno delle feste natalizie, nell'augurarvi di passare un anno felice, magari realizzando le cose che vi stanno più a cuore. Torniamo ancora una volta a questa atmosfera natalizia che probabilmente voi state respirando, e basta che vi giriate e troverete qualcosa di natalizio, mi auguro, in casa vostra, e magari le luci sull'albero, magari vi state godendo i regali che vi hanno fatto. Insomma, a Natale spero che tutti abbiamo ricevuto una sorpresa, o meglio che ci siamo sorpresi per qualcosa, perché forse non c'è niente di più bello nel periodo di Natale che avere la capacità di credere nelle sorprese che ti fa la vita e scoprire che la notte può portare cose inaspettate e bellissime. Insomma, che la festa abbia inizio. Quindi anche oggi, 1 gennaio 2018, voglio raccontarvi una classica storia di Natale, la storia dello schiaccianoci, una storia bellissima. Forse molti di voi la conosceranno già perché hanno avuto la fortuna di vedere il balletto ispirato a questa favola, però gli avvenimenti sono molto più complessi dei semplici quadri di quel balletto. Partiamo subito col nostro racconto e conosciamo i protagonisti. Il 24 dicembre la stanza da pranzo e ancor di più il salone accanto furono formalmente vietati ai figli del medico Stahlbaum. Fritz e Marie erano seduti l'uno accanto all'altra in un angolo della camera da letto sul retro della casa. Il crepuscolo della sera era già calato ed essi provarono una certa paura, non vedendo alcuna luce accesa come al solito a quest'ora del giorno. Fritz e Marie sono fratello e sorella, il primo ha 10 anni, la bambina ne ha solo 7, è una bambina con lunghi capelli che finiscono con dei boccoli d'oro, lei ha pelle d'alabastro, è dolce, è affabile, si commuove per chiunque a partire dalle sue bambole, è tutto il contrario di Fritz, il fratello, che è un bambino grande e grosso, rumoroso, è il tipico bambino che pesta i piedi appena qualcosa lo contraddice. E abbiamo visto che è la notte di Natale, nella stanza accanto i genitori dei bambini stanno combinando qualcosa attorno all'albero, hanno proibito ai figli di affacciarsi nel salotto. In quel momento però si sente bussare alla porta d'ingresso, per i bambini questo è il segnale che è in arrivo il dottor Drosselmeier. Il consigliere dell'Alta Corte di Giustizia, Drosselmeier, non era bello. Era piccolo e magro, aveva una faccia piena di rughe. Portava una grande benda nera sopra l'occhio destro ed era calvo, il che lo costringeva a indossare una bella parrucca bianca, ma fatta di vetro, con grande maestria. Perché ogni anno, assieme al Natale, arriva il padrino dei bambini, il dottor Drosselmeier, un curioso amico dei genitori di Fritz e Marie, che non manca mai di portare qualcosa di bello. Lui è un avvocato, ma è anche a suo modo un artigiano, uno che ama costruire le cose con le sue mani. E poi la sua specialità è gli orologi. È bravissimo nel ripararli, anche quelli col meccanismo più complicato. Questa sua capacità di usare le mani fa sì che Natale possa inventarsi sempre qualcosa di fantastico da costruire per la gioia dei suoi piccoli amici. Quando veniva, il padrino aveva sempre qualcosa di carino in tasca per i bambini. A volte un burattino che voltava gli occhi e faceva delle capriole molto comiche, a volte una tabacchiera da cui usciva fuori un uccellino o qualcos'altro del genere. Ma a Natale portava sempre un bel regalo eseguito ad arte da lui stesso, che gli era costato molto lavoro e che i genitori tenevano con cura dopo averlo ricevuto. Insomma, l'arrivo del padrino di solito significa che la lunga attesa dei bambini è finalmente arrivata alla fine, e infatti c'è una campanella che suona, è il segnale, finalmente le porte del salotto si spalancano e i genitori invitano Fritz e Maria a entrare, e di fronte a loro si staglia un grande pino, è pieno di pomidoro e di argento, e poi dai rami pendono caramelle, cioccolatine che si mischiano alle piccole candele illuminate, ai festoni colorati. E poi ci sono tutti i regali, bambole per Marie, un cavalluccio di legno per Fritz, un vestitino per la bambina, dei libri colorati per il fratello maggiore, insomma, il Natale non poteva essere migliore. Poi arrivano i regali del dottor Drosselmeier, sono così belli, però sono fragili, non si possono usare tutti i giorni, così i bambini li abbandonano subito per tornare a guardare gli altri doni. Fra questi Marie è attratta da un curioso schiaccianoci di legno a forma anche lui di soldatino, con una grossa testa, un mantello rigido che si alza e si abbassa e un berretto in testa. La sua testa era troppo grande e inoltre sembrava come se il suo grosso ventre non fosse in alcun modo collegato alle sue piccole membra. Ma almeno il vestito parlava a suo favore, perché faceva pensare a un uomo di buon gusto. Indossava una bellissima giacca da ussaro di un brillante color viola, con guanti e bottoni bianchi, pantaloni dello stesso genere e quegli stivali molto carini che erano in voga tra gli studenti e fra gli ufficiali. Erano così ben aderenti alle gambe che si sarebbe potuto pensare che fossero dipinti. Ma la bambina vuole sapere come funziona e per questo l'aiuta il papà. Il padre lo prese gentilmente dal tavolo, sollevò il mantello in alto e di conseguenza l'ometto aprì una bocca enorme e mostrò una doppia fila di denti bianchi e appuntiti. Marie, su invito di suo padre, ci mise dentro una noce e, crack, l'ometto la spezzò in modo che i gusci cadessero a pezzi e che Marie ricevesse il dolce frutto in mano. E tutti impararono, e Marie con gli altri, che il grazioso ometto discendeva in linea diretta dalla famiglia degli schiaccianoci e che era lì per continuare la professione dei suoi antenati. Questo ometto con questo meccanismo così intelligente affascina Marie, le piace proprio, lo prende tra le sue braccia, lo culla come fosse una delle sue bambole. Poi arriva Fritz, che invece è irruento, in Piemonte direbbero un brunsun, anche lui vuole provare a usarlo, però sceglie le noci più grosse e più dure, il risultato che finisce per rompere il povero schiaccianoci dopo pochi minuti, e per Marie questo è un grande dolore. Così fascia il povero soldatino di legno col suo nastro dei capelli, chiede aiuto a Drosselmeier. Dove stai andando, Mary? Prendo lo schiaccianoci. Come hai potuto farlo? Mary, fammi vedere. Gli manca un pezzo, guardate. Tranquilla, cara, non è così grave. L'ho trovato. Lui riesce a rompere qualsiasi cosa. È solo uno stupido giocattolo. No, non è vero. Mary ha ragione. Quello che è solo un giocattolo per te può apparire un vero amico per qualcun altro. In attesa di farlo aggiustare dal padrino, da Drosselmeier, Marie rientra in camera da letto con lo schiaccianoci fasciato. E qui c'è un bellissimo armadio con le ante di vetro, un armadio che il padre ha fatto costruire proprio per permettere ai bambini di riporre i loro giocattoli. Fritz ammassa i suoi soldatini nello scaffale di sotto. Marie sposta Clara, che è la sua bambola preferita, e per quella sera lascia il suo lettino all'ometto di legno. E sembra che il piccolo schiaccianoci, almeno così pare la bambina, faccia una specie di smorfia di ringraziamento. Deve essere la stanchezza che fa dei brutti scherzi. Così Marie va a dormire. Ma in quel momento ci fu un suono di risate e di fischietti che arrivava da tutte le parti. E presto si sentirono i passi e il correre dietro i muri come di migliaia di piccoli piedi e mille piccole luci brillarono attraverso le fessure del pavimento. Ma non erano luci, erano piccoli occhi fiammeggianti, e Marie notò che apparivano da tutte le parti. Presto, tutto intorno la stanza, qualcosa stava correndo, trotterellando, galoppando. In quel momento la pendola batte i 12 rintocchi della mezzanotte e Marie si accorge che nella notte appaiono degli occhietti luminosi, sono quelli di tanti topi che la osservano squittendo. Per la paura Marie indietreggia, io sarei proprio scappato in un altro continente. E lei indietreggia fino ad arrivare a colpire con il gomito la vetrina dell'armadio spaccandola. Lei si ferisce, ma più del dolore è la paura. I topi sono tanti, sono disposti come soldatini in file ordinate. Davanti a loro ce n'è uno con 7 teste, ognuna con una piccola corona d'oro. È il re dei topi. Tutto il suo esercito lo saluta con entusiasmo, ma in quel momento Marie sente che dietro di lei è come se si animasse la vetrina. Tutti i giocattoli vogliono correre in aiuto alla loro padroncina. Fra questi c'è anche lo schiaccianoci, che non si è ancora rimesso però dalle sue ferite. Arriva allora Clara, la bambola preferita di Marie, che consiglia allo schiaccianoci di riposarsi. Tu che sei malato e ferito, vai incontro ai pericoli. Guarda come i tuoi valorosi vassalli si riuniscono, impazienti di combattere, certi di vincere. Scaramouche, Pantalone, lo spazzacamino, il suonatore d'arpa e il tamburo sono là in fondo. E anche quelli accanto a me si agitano e si muovono. Per favore, principe, riposa e applaudi da qui alla vittoria. Inutile dirlo, insomma, lo schiaccianoci non può accontentarsi di guardare. È piccolo, è ferito, ma è un ometto coraggioso, si getta nella mischia. Però i topi sono crudeli, sono combattivi, la partita sembra disperata. Poi Marie, che fino a quel momento non sapeva come fare a aiutare i suoi amici, si toglie una scarpa, la lancia sull'esercito dei topi, che improvvisamente si dilegua. Però la bambina non ha il tempo di gioire perché è provata dalla ferita al gomito, è troppo tesa, insomma sviene accasciandosi al suolo. Quando Marie si risveglia è circondata dai genitori preoccupati, il papà che è dottore le cura il gomito ferito, la mamma le racconta che ha visto la luce accesa sotto la porta della sua camera, quando è entrata l'ha trovata svenuta, sanguinante in mezzo ai vetri rotti e non sospetta nulla. La mamma è convinta che lei per la stanchezza sia caduta di colpo addormentata spaccando il vetro. La figlia le racconta questa storia popolata di topi con 7 teste, con bambole che scendono in guerra, schiaccianoci animali. E naturalmente non può che credere che la bambina stia sognando, sia alterata, sia impazzita. Insomma, Marie si ammala, viene messa a letto, a riposare. Durante la malattia Marie riceve la visita del dottor Drosselmeier, che le restituisce lo schiaccianoci che è stato riparato e le racconta una storia incredibile. E a loro si unisce Fritz, che è seduto ai piedi del letto della sorella. Ammetterai, Marie, che lo schiaccianoci non è così ben fatto e che non possiamo dargli un certificato di bellezza. Se vuoi ascoltarmi, ti dirò come questa bruttezza è diventata ereditaria nella sua famiglia, ma forse dovresti prima conoscere la storia della principessa Pirlipat, della strega di Moserinx e dell'intelligente orologiaio. Il falco e il gabbiano. Se siete tra quelli che amano l'atmosfera magica del Natale e se credete nelle belle storie, allora rimanete con noi. Vi stiamo raccontando una delle storie più belle e magiche, la storia dello schiaccianoci. Molti avranno visto, magari almeno una volta, magari non per intero, il balletto bellissimo creato alla fine dell'Ottocento da Piotr Ilyich Tchaikovsky, cioè creato sulle note della musica di Tchaikovsky. Però la storia in un balletto può essere solo accennata, schematizzata in tante specie di quadri che però non possono raccontare tutte le stranezze, le meraviglie che stanno accadendo in questa storia piena di colpi di scena. E quindi ci pensiamo noi. Eh già, perché le avventure che accadono alla piccola Maria, al fratello Fritz, dopo l'arrivo di questo brutto ma simpatico schiaccianoci, sono avventure che diventano sorprendenti. Lo schiaccianoci in realtà è una specie di soldatino di legno. Maria ha ricevuto questo piccolo oggetto la notte di Natale, le cose hanno preso un ritmo forsennato, e perché poi c'è stata una grande guerra tra i giocattoli e il re dei topi dalle 7 teste con le 7 corone. Insomma, una serie di eventi che hanno fatto sì che Marie cadesse ammalata. Poi il padrino Drosselmeier però la va a trovare e lei si trova a ascoltare un racconto sorprendente che in parte spiega la storia dello schiaccianoci, perché è una storia incredibile, ha come protagonista una certa principessa Pirlipat. Come sempre tutti inizia con una nascita, la principessina che nasce riempie di gioia tutto il regno del padre, una bambina di una bellezza rarissima, unica, con dei capelli che terminavano con boccoli d'oro, insomma una gioia per i suoi genitori. O forse no. Tutti erano felici per la bambina, solo la regina sembrava a disagio e nessuno ne indovinava la causa. Però tutti notavano che trascorreva il tempo a sorvegliare la culla della neonata, oltre ad aver messo dei soldati fuori la porta e alle due nutrici vicino alla culla, ne aggiungeva altre sei ogni notte nella stanza. Ma quello che sembrava singolare e incomprensibile era che ogni nutrice doveva avere un gatto in grembo e lo doveva accarezzare tutta la notte per tenerlo costantemente sveglio. Insomma, il comportamento della regina è molto strano, ma c'è una ragione. Qualche tempo prima, durante la visita di alcuni ambasciatori al palazzo per l'occasione, il re aveva chiesto alla moglie di cucinargli il suo piatto preferito, le salsicce con la pancetta, un re al quale piaceva stare leggero. Così la regina era andata in cucina a friggere e da sotto il mobile era comparsa una topina, Frau Moserings, una topina che da anni abitava nel palazzo, era ben voluta da tutti, accettata, trattata bene dalla regina. Così quando questa aveva chiesto un pezzetto della pancetta, la regina l'aveva accontentata. La cosa non era finita qui. Poi arrivarono i suoi amici e le sue amiche e persino i suoi sette figli, tutti molto cattivi, che si gettarono sulla pancetta e la regina, sconcertata, non poté impedirglielo. Per fortuna arrivò una dama di corte che scacciò quegli ospiti sgraditi, tanto che un po' di pancetta riuscì a salvarsi. E grazie alle istruzioni impartite dal professore di matematica della corte, quello che avanzò venne artisticamente disposto intorno alle salsicce. Il matematico di corte forse non era così bravo, poi in realtà di pancetta ne era rimasta veramente troppo poca. Così il re vede il piatto misero, viene a sapere la ragione, va su tutte le furie e medita vendetta e chiama l'orologiaio di conte, che di nome, guarda caso, fa Christian Drosselmeier. Eh sì, è proprio come il padrino di Fritz e Marie. E in ogni caso lui prepara delle trappole che riescono, che fanno strage della famiglia di Frau Moserings, uccidono i sette figli maleducati, uccidono gli amici ingordi, si salva solo la topina che però giura vendetta. Miglior vendetta per la morte dei suoi figli è quella di minacciare di morte la bambina che la regina ha in grembo, la bambina che sta per nascere. Ecco spiegato il tormento della povera donna, la ragione per cui lei circonda la sua bambina di guardie e di gatti. I miei bambini, i miei amici e i miei pettegolezzi furono uccisi. Abbi cura, regina, che la regina dei topi non strappi il bambino in due con i suoi denti. Stammi bene. E la miglior vendetta per i suoi figli è quella di minacciare di morte la bambina che la regina ha in grembo e che sta per nascere. Ecco spiegato il tormento di questa povera donna, benché regina, insomma la ragione per cui circonda la sua bambina di guardie e di gatti. Quando il destino prende il suo corso non si può fare niente per sviarlo. La maledizione di Frau Moserings si avvera una notte in cui le nutrici si addormentano, smettono di accarezzare i gatti che si addormentano a loro volta e lasciano il campo libero alla topina. Solo la nutrice più anziana a un certo punto si sveglia in preda all'inquietudine e fa appena in tempo a vedere Frau Moserings che si sta sporgendo sulla culla della bambina per morderla. La donna lancia un urlo terribile che mette in fuga l'animale, ma ormai il male è stato fatto. La piccola Pirlipat è trasformata per sempre. Invece di un volto bianco e rosa e dei riccioli d'oro, si vedeva una testa grossa e informe su un corpo piccolo e rattrappito. Gli occhi blu erano diventati occhi verdi dallo sguardo fisso. La bocca si allungava da un orecchio all'altro. La regina era pronta a morire di dolore e soffocare con singhiozzi e si dovette coprire le pareti dello studio del re con degli arazzi perché batteva la testa sul muro gridando «Come sono infelice!» Viene convocato immediatamente Drosselmeier sperando che lui possa trovare una soluzione, però non è facile, l'orologiaio impiega qualche giorno a farsi venire un'idea, impiega le sue notti a confabulare con l'astronomo di corte che continua a scrutare l'oroscopo della principessa Pirlipat nella speranza di scovare un segno, insomma in qualche modo alla fine di 3 giorni e di 3 notti Drosselmeier arriverà alla soluzione. Per rompere il maleficio la principessa dovrà mangiare una noce Krakatuk. La noce Krakatuk aveva un guscio così duro che una palla di cannone da 48 pollici poteva colpirla senza romperla. Questo guscio duro doveva essere rotto alla presenza della principessa da un uomo che non era stato mai rasato e che non aveva mai indossato stivali. E dopo aver dato la noce alla principessa, avrebbe dovuto indietreggiare 7 passi indietro, ad occhi chiusi e senza inciampare. Insomma, una cosa semplicissima. Infatti il viaggio di Drosselmeier alla ricerca della noce più dura e dell'uomo senza barba dura 15 anni, 15 lunghi anni, trascorsi in giro per il mondo, ma senza successo. La noce Krakatuk non si trovava. 15 anni passano da quando Drosselmeier si mette in cerca della noce Krakatuk. È un lungo periodo che non porta frutti, è proprio il caso di dirlo. Insomma, è sfiduciato e intristito da questo fallimento, il fallimento di una spedizione che l'ha portato fino in Asia. Non ha altro desiderio se non quello di tornare a Norimberga, sua città natale. Al suo arrivo va a trovare un suo cugino Christopher e scoprite che proprio lui possiede la noce più dura del mondo. Pensate, uno arriva fino in Asia per scoprire che l'oggetto che sta cercando è dietro l'angolo di proprietà di un cugino, e del resto accade spesso così. Vedi, questa noce ha proprietà singolari. Diversi anni fa, nel periodo natalizio, uno straniero arrivò con una borsa piena di noci che offrì a prezzi molto bassi. In lotta con gli altri venditori di noci, che non volevano sopportare un altro venditore in città, mise per terra il suo sacco di noci, proprio di fronte al mio negozio. In quel momento un carretto molto carico passò sopra la borsa. Tutte le noci si ruppero, ad eccezione di una, che lo sconosciuto mi offrì, sorridendo in modo strano in cambio di una moneta dell'anno 1720. Per puro caso trovai nella mia tasca una moneta dell'anno che l'uomo chiedeva e così comprai la noce e l'ho dorata, senza capire come mai mi fossi preso la briga di acquistarne una così costosa. La noce è una noce di medie dimensioni, leggermente dorata, con la parola Krakatuk incisa in alfabeto cinese. Ma c'è un'altra sorpresa in serbo per lui. Non solo ha trovato la noce Krakatuk, in più scopre che il figlio del cugino, un bel ragazzino ancora giovane, è capace di rompere con i denti qualsiasi noce, anche le più dure. Tutti lo chiamano lo schiaccianoci. Il falco e il gabbiano. E finalmente l'orologiaio Drosselmeier ha trovato il suo eroe, cioè quello che avrebbe infranto l'incantesimo, che è il suo giovane nipote. Perché? Perché questo nipote è in grado di rompere le noci con i denti. E noi è proprio di una noce che abbiamo bisogno. Bisogna tornare al regno di Pirlipat con questa noce che possa guarire dal maleficio la principessa. E l'astrologo che ha viaggiato con Drosselmeier durante questi 15 anni di ricerca fa una raccomandazione per essere sicuri del successo dell'operazione. È lui, l'abbiamo trovato! Ma per preparare il tuo nipote eccellente dobbiamo costruire un marchingegno di legno che rafforzerà la sua mascella inferiore e gli garantirà di rompere la noce. E così preparato, il giovane nipote di Drosselmeier arriva al castello di Prilipa, la bambina che con l'età è diventata ancora più brutta. Le è spuntata una barba biancastra, è bassa, è sproporzionata, insomma è veramente è brutta, insomma sembra qualche parlamentare donna che conosco. Non mette in fuga i tanti pretendenti alla sua mano, vengono tutti invogliati dalla speranza di diventare i futuri sovrani del suo regno. legno, ma nessuno riesce a rompere la noce fino al giorno in cui il giovane schiaccianoci si presenta a corte. Quando gli viene portata davanti la noce Krakatuk, tutta la corte è col fiato sospeso. Ma grazie alle sue doti, grazie a questo marchingegno ingegnoso, si compie il miracolo. La noce si rompe e il giovane consegna il gheriglio alla brutta principessa, che lo mangia, e improvvisamente, neanche con Photoshop avverrebbe, si trasforma, torna una bellissima ragazza dal viso d'angelo contornato di boccoli d'oro. Tutti sono abbacinati da questa meravigliosa trasformazione. Nel frattempo lo schiaccianoci sta compiendo i suoi rituali 7 passi indietro. Quando gli rimane un ultimo passo, lui pesta col piede Frau Moserix, che ha assistito a tutta la scena di nascosto. Il colpo è mortale, la topina sta morendo, ma con l'ultimo respiro che le rimane pronuncia un'ultima maledizione, questa volta ai danni dello schiaccianoci, che si trova trasformato in un soldatino di legno. E non solo per il resto della sua vita, da utensile di legno sarebbe stato perseguitato dal re dei topi dalle 7 teste. E con la trasformazione del giovane nipote in uno schiaccianoci si conclude il racconto del padrino Drosselmeier ai bambini. Quindi Marie è sconvolta, perché il suo piccolo schiaccianoci, il giocattolo che lei possiede, non è altro che il nipote dell'orologiaio costretto a questa vita dalla crudele Frau Moserings. Il padrino la rassicura, però non tutto è perduto, perché se schiaccianoci riuscirà a sconfiggere il re dei topi e a conquistare l'amore di una ragazza, allora tornerà umano. Maria può correre, ormai è guarita, può correre a riabbracciare il suo schiaccianoci, ma proprio questo gesto produce un'incredibile magia. Lo schiaccianoci risponde al suo gesto con le parole. Ciao Mary, tu sai parlare? Stavo aspettando qualcuno come te. Solo tu hai il potere di infrangere la maledizione. Combatterò contro il re dei topi e riconquisterò il mio regno. Vuoi venire con me? Sì. Ma per sconfiggere il re dei topi ci vuole una cosa fondamentale, una spada. Questo pensa il buon Fritz, che dà a Schiaccianoci una bellissima spada, proprio delle dimensioni giuste per questo piccolo ometto. Così lui, armato di tutto punto, conduce Marie nel suo mondo per la sfida finale contro il terribile mostro a 7 teste. Vedi quella città? Era mia, prima che il re dei topi me la togliesse. Siamo alle ultime battute della nostra storia. C'è un duello terribile. Schiaccianoci riesce finalmente a uccidere il re dei topi. Si presenta davanti a Marie con le 7 coroncine in regalo. La invita a seguirla nel suo regno riconquistato. Speriamo che le 7 coroncine lui le abbia disinfettate prima di regalarle alla bambina. Comunque, siamo in questo regno. È un luogo meraviglioso, popolato da bambole, da soldatini, è pieno di caramelle, di zucchero filato, fiumi di limonata, latte di mandorla. E così, fra un giro e l'altro, dopo una giornata così intensa, così piena di emozioni, Marie si addormenta. Quando si sveglia, la bambina racconta le sue avventure alla madre e al papà, che naturalmente non le credono, le dicono che ha sognato, che niente di tutto quello che sta raccontando è mai accaduto. E Maria è delusa, si trova da sola assieme al suo schiaccianoci e, accarezzandolo, gli confessa una cosa. Ah, caro giovane Drosselmeier, se tu fossi davvero un umano, non farei come la principessa Pirlipat. Io non ti rifiuterei solo perché non sei più un bel giovane. Proprio in quel momento entrano in casa il padrino Drosselmeier, che è accompagnato da un nipote. Alla vista di questo ragazzo, Marie sviene, cade giù dalla sedia, perché il giovane è bello, è elegante, ma soprattutto è incredibilmente somigliante in meglio allo schiaccianoci. Il ragazzo la prega di mostrargli i suoi occhi, i due rimangono da soli e lui le si mette davanti in ginocchio e le rivela di essere proprio lui lo schiaccianoci, e che il maleficio che l'ha perseguitato per tutto il tempo è stato infranto dalle parole di amore incondizionato che Marie ha pronunciato poco prima. Oh, brava e buona signorina Stahlbaum, colui che vedi ai tuoi piedi è il felice Drosselmeier, al quale in questo stesso luogo hai salvato la vita. Sei stata così gentile da dire che non mi avresti respinto anche se fossi diventato brutto, come fece invece la malvagia principessa Pirlipat. In quel momento ho smesso di essere lo schiaccianoci e ho ripreso la mia vecchia forma, che tanto male non era. Stimata signorina, fammi felice facendomi il dono della tua mano. Condividi con me l'impero e la corona. Regna con me nel castello di Frangipane, di cui sono il sovrano. Questa volta non ci sono dubbi, tutto si è compiuto, si è concluso al meglio. Il fidanzamento tra Marie e il giovane nipote Drosselmeier viene annunciato. Dopo qualche anno, quando Marie è diventata grande, viene celebrato un matrimonio sfarzoso. C'è una festa, 22.000 invitati, il ragazzo che arriva in una carrozza d'oro tirata da cavalli d'argento, con i due sposi che vanno a vivere in un castello di marzapane circondato da alberi di Natale, e vivono come in tutti i casi del genere, felici e contenti per il resto della loro vita. Insomma, una storia magari un po' complicata, ma con un lieto fine, cosa che noi vi auguriamo per tutte le storie che vi capiterà di vivere nel 2018. Per tutte le vostre storie vi auguro un lieto fine, e tutta la redazione e tutti quelli che stanno lavorando a questo programma si uniscono a me. Buon 2018. Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.